Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Secondo il Movimento 5 Stelle, la sua telenovela giudiziaria impedisce di governare per bene la Campania, la tiene sotto scacco. Hanno chiesto sempre, spesso, le sue dimissioni. Lei vorrebbe dire qualcosa invece sulla Capuozzo e il caso Quarto, per esempio? Dovrebbe dimettere. Su che devo parlare? Sulla sua delicata premessa? Devo commentare 5 Stelle o devo parlare della mia vita? Come lei vede, godo di ottima salute. Hanno sempre chiesto le sue dimissioni, no? E che continuino a chiedere. Il PD non lo ha fatto, però chiede le dimissioni del sindaco di Quarto. Non le sembra un po' incoerente? Lei, che mi appare una donna dallo sguardo vivace e intelligente, sarà stata informata che c'è una qualche differenza fra i voti della camorra e l'abuso d'ufficio in un paese come l'Italia. Quindi non c'è nessuna incoerenza, l'unica incoerenza ce l'hanno i nostri amici 5 Stelle, a cominciare dal mio amicissimo Beppe Grillo, che io ammiro profondamente. L'ho sempre detto, uno che si va a prendere il sole a Malindi, in Costa Smeralda, a Marina di Bibona, e poi quando finisce l'abbronzatura fa una dichiarazione sulla parola, secondo me è un mito, è un mito. Palazzo San Macuto è anche la sede della Commissione Antimafia. Ha incontrato la Presidente Bindi nei corridoi? Avete fatto pace? O andate a cena stasera? Lei è un malvivente. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Ci vorrebbe, altro che il Brunetta del giorno, per un tempo lo facevamo, ci vorrebbe l'editoriale di Vincenzo De Luca. Perché non lo ingaggiamo come editorialista? Dico, Vincenzo De Luca, a 30 secondi, dica quello che vuole sul tema a suo piacere. Vabbè, ma ragazzi, come smonta le domande. Uno si è preparato tutto il tempo, va lì a fare la domanda giusta, faccio io la domanda giusta che incastra tutto, Trac! Lei ha degli occhioni così vivaci. Va bene, sono le 6:30 minuti in punto, cari ascoltatori, Questo è 24 Mattino. C'è il nostro Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Peter Bescapè in regia. Siamo tutti pronti? Tutti pronti? Voglio subito convocare il nostro Fedez. Il nostro Federico Novella. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Di la verità che un faccia a faccia con De Luca non sarebbe male. Ma lei conquista. Volevo dirti Alessandro che hai dei gran begli occhioni. Ma lei, Federico Novella, con questa. Ma lei si è aperta la barra di Mediaset oggi quando è arrivato in redazione, Si è aperta anche oggi. Si è aperta anche oggi. Ho una risposta giusta per ogni momento. Al momento giusto la risposta giusta. Esatto. Il nostro Federico Novella che conduce Mattino 5 dalle 9 su Canale Eccoci. 5. Eccoci qui. Sei già in tangenziale? No, sei dove sei? No, sono già arrivato. Come sei già arrivato? Sono qua, oggi ho fatto un po' le cose in anticipo. Ma vabbè, ma... cioè, non hai niente camionista bulgaro sulla tangenziale oggi? Niente. No, ho voluto evitarlo, siccome conosco i suoi orari, so ormai quando esce di casa. Ti ha minacciato? Quando mi si piazza davanti, esatto. E l'hai fregato stavolta. L'ho evitato. Allora, caro Federico, voglio aprire subito il Parlamento, perché oggi c'è un grande ritorno al Parlamento. Prendere un caffè, quindi se mai scegliamo salutiamo il ministro Boschi, che va a prendere un caffè, lo vorrà salutare sicuramente anche un suo corregionale onorevole di conservatori e riformisti, l'onorevole Maurizio Bianconi. Come sta? Io bene, lei? Bene, bene, grazie. Aretino, sì. Terra di massoni. Lei è massone, Bianconi? No. Non c'è cascato. Novella, l'ho fatta così a tradimento. Purtroppo così a freddo non te lo dicono mai. No, poi l'ha detto no con un risolino. Secondo me è sincero. Ha detto no. E quindi, come sta, Bianconi? Io sto bene. Succedono delle cose dalle sue parti, che... Le mie parti è una terra ricca di storie, perché è una terra apparentemente silente, ma molto vicino a Roma, e molto ricca è stata, ora molto meno. Sì. È la sua posizione geografica che mi ha facilitato il protagonismo. Ah, no, ma io mi riferivo proprio a cose un po'... Sì, ma io dicevo di quello. Ah, di quello proprio. Sì, il protagonismo di queste cose pure... Dipende dal fatto che è abbastanza nascosta, ma è vicinissima a Firenze e vicina a Roma. Ah, capito, Federico, è questo, cioè lì ci sono cose oscure perché è nascosta ma vicino ai centri del potere. Sì, esatto, è il posto giusto dove... Gelli l'aveva scelta per quello, insomma, stava lì apposta. Capisci, dice Gelli. Sì, è praticamente nascosta ma in una posizione strategica, per cui esatto. Quando devi uscire allo scoperto... È una posizione strategica, ecco, diciamo. Puoi fare cucù in maniera al momento opportuno. Oh ragazzi, ma non si capisce niente questa cosa di massoneria. Vabbè, ma adesso no, l'approfondiamo. Queste sono tutte cazzate. Eccola lì. Che non finiranno che per favorire tutte cazzate. Mi sa che allora cazzata da un punto di vista politico. Ci siano o non ci siano, no, cioè non è la verità della cosa che sconvolge, è il peso che gli si dà. Federico comincia a smentire, comincia a buttare acqua sul fuoco, quindi forse è massone Bianconi. No. Probabilmente da qui a un quarto d'ora riusciamo a sgamarlo. Sì, esatto. Io dico che è tutto vero, non so esattamente cosa... È come quando hanno cercato di incastrare Verdini con questo abitorismo. Mi sembra possibile che una repubblica come questa possa dipendere da 3 o 4 testi di cazzo. Io penso che il problema sia un pochino più complicato. Qualcosa non ci sorprenderebbe, probabilmente sì. Esatto, però l'editoriale di Bianconi è abbastanza chiaro su questo. Ma come la vede la Boschi, Bianconi? Io ho dato un giudizio su questa figliola. No? È il classico culo di pietra, è una che studia tanto. Poi deve ancora... Culo di pietra. Culo di pietra come Berlinguer, anche Berlinguer era un culo di pietra, no? Però deve digerire, insomma, è acerba. È molto, molto brava nell'eloquio. Però come voi vedete impara tutto a memoria. Ecco. E quindi insomma deve un po' maturare, ecco. Gli è stato dato un compito che è sproporzionato alle sue forze. Però insomma questa storia dei massoni pare che stia prendendo corpo, almeno sui giornali. Sentite Giarrusso, Movimento 5 Stelle, grandi amici di Bianconi, questi Federico Novella sono proprio persone con cui va... di scuola, sì, proprio. Compagni di colazione, pranzo e cena. Io sono amico dei 5 Stelle. Sono loro ma che... La cosa non è reciproca, loro penso. Loro non lo sanno, però. Comunque Giarrusso sui problemi sulla massoneria, c'è la massoneria e il governo, è tornata questa voce. Io dico e lo dico da tempo che noi abbiamo un problema di massoni al governo che dobbiamo chiarire al più presto. Questa vicenda di Banca Etruria, che nasce in un contesto di massoneria, che ricordiamo Banca Etruria è la banca dove Gelli aveva il conto corrente della P2, dove si versavano le quote, dove si facevano operazioni. Capito Federico, se non è una prova questa, cioè non so. Su Banca Etruria, faccio per favore l'informazione, il problema è diverso. Banca Etruria era in mano alla massoneria, non di Gelli, ed è stata scavalcata dall'Opus ebrei. Ah. Oggi sono tutti cattolici quelli che vengono da capito? Cioè, Federico, qua la vicenda si complica. La vicenda si complica. Non avevo calcolato la Bus Day, in effetti. Esatto. I debiti grossi se li sono fatti comprando i voti. Sì. Però allora c'è questa vulgata. Federico, vorrei capire da collega se questa idea che c'è sui giornali è abbastanza diffusa, è anche la tua opinione. Cioè, è che in questo momento, per non parlare di Banca Etruria, Renzi stia parlando di, non so, licenziamento in 48 ore degli statali, piuttosto che questo dibattito con l'Unione Europea, che sembra ormai un... Scusa, Alessandro, la risposta secondo me te la sei un po' data anche da solo, con i tuoi begli occhi, secondo me, nel senso che sì. Una potenza di Renzi consiste nel fatto di dettare l'agenda politica. Questo lo facevano anche altri governanti prima di lui. Questo è più bravo perché usa le parole giuste, e ha anche una certa stampa che, diciamo, che non disdegna di seguirlo. Quando è in difficoltà tira fuori alcuni conigli dal cappello che di solito funzionano sempre, tipo sparare sulla Merkel, questo funziona sempre, tipo sparare sui sindacati o sulla magistratura, sono cose che più delle volte mettono d'accordo un po' tutti e servono a distogliere l'attenzione, come ad esempio questa cosa sui furbi, che è una cosa che non si sa se si potrà applicare, quella cosa di cacciare in 48 ore si sa se si potrà applicare, non si sa se la legge c'è già ma non funziona, però è una cosa che fa presa e serve, secondo me, a distogliere l'attenzione su un punto debole che non è ancora stato ricucito, perché diciamoci la verità, a me poi della storia della massoneria è una cosa di colore. Mi preoccupa di più il fatto che ci sono tante banche che sono nella stessa situazione di Banca Etruria e sono pronte ad esplodere, quindi è una bomba d'orologeria che ancora non sanno come gestire al governo. Sì. Tra l'altro oggi, giusto per dire, il caso Sanremo, vi lo ricordate? Bianconi se lo ricorda, quello che andava a timbrare in mutande? Sì, in mutande. Ecco, come no. Due messi notificatori e un operaio sono stati licenziati, questo scrive il Secolo XIX, tre mesi dopo. È un evento. Vabbè, però si può fare, cioè voglio dire, ci sono le norme. Si può fare. Senta, il problema, secondo me, da un punto di vista comunicativo è questo. Renzi è fortemente in crisi per questa faccenda, che deriva veramente da una buccia di banana. Ma quale faccenda? La Banca Etruria? Questa è la Banca Etruria, sì. Ma per te, quando fai tutto il castello di carte, che ti sta tutto che ti torna bene, poi viene un refro di vento e ti va tutto a terra. E lui ha fatto così, perché ci vuole il cervello, di Mosca, non lo so io, un cervellino inoino. Fare il babbo vicepresidente di una banca un mese dopo che sei diventato ministro, perché ti mette sicuramente in prima pagina. Prima o poi qualcosa. Col culo fuori di finestra, come si dice noi. Capito? Poi, e che succede se ti metti col culo fuori di finestra? Che puoi pensarci, tu sei di passo e ti esponi. Soprattutto se sei a piano terra, diciamo. Voglio dire, sono le ingenuità. Dei campagnoli diventati cittadini, mannaggia. E lui è di Vignano e lei di Laterina, non c'è niente da fare. Cioè, mettiamola così, Federico, si è messo col culo fuori di finestra e sta al pian terreno, capisci? E lì c'è un gran via vai, capisci? E quindi il problema lì dice, poi francamente questa cosa che si è messo a fare gli sbellezzi alla Merkel, arme di distrazione di massa, ho capito, però scusate adesso, la faccenda di quarto sicuramente un deficit in qualche modo del Movimento 5 Stelle, ma non è un affare di Stato, l'ha fatto diventare un affare di Stato. Effettivamente lo stanno gonfiando molto, però Federico, questa cosa dell'Europa, cioè non è che ci inventiamo noi, che Juncker ha detto, e anche ieri il suo portavoce, ma il portavoce di Juncker che dice non ci sono interlocutori in Italia, quando si dice così, guardate che oggi Massimo Franco sul Corriere dice attenzione a questi attacchi, perché dire non c'è un interlocutore in Italia vuol dire che non c'è un governo credibile, e che è una cosa seria, una cosa grave, insomma, no, Federico? Sì, però è stato, è certo che è una cosa grave, tra l'altro non è neanche la prima volta, no? Ti ricordi che Kissinger, se non sbaglio, diceva datemi il numero di telefono, sì, dell'Europa, ecco, stavolta è l'Europa che dice all'Italia datemi il numero di telefono del governo. Però è stato provocato, attenzione, sì, cioè è stato Renzi che ha alzato la tensione con l'Europa e non è neanche la prima volta che succede, e soprattutto che fa la voce grossa con la Germania, che diciamo che agli occhi degli italiani rappresenta un po' il vero dominus dell'Europa. Però poi in questo Renzi è molto bravo, mentre di fronte alla grande massa di elettori alza la voce con l'Europa, poi però negli incontri ufficiali, magari bravo, lontano dalle telecamere, ricuce. Questo è il vero comunicatore, questa è la vera forza di Renzi, secondo mica era come Berlusconi che faceva i cucù e Bianconi adesso. Ecco, no, c'è da dire, c'è da dire una cosa, che stavolta si è spinto forse un attimino un po' più là, perché sì, anche le più famose colombe in Europa hanno un po' storto il naso, quindi forse stavolta ha un po' esagerato, però fa parte anche questo di una strategia, volevo dire. Bianconi, che dice? No, la questione di Renzi è molto abbastanza semplice, senza complicarla. Berlusconi si faceva ridere nel muso dalla Merkel e da Sarkozy, dando anche lì la prova della incredibilità del governo italiano. Sì. E Renzi ha provato a ripetere il canovaccio di un'Italia vilipesa dall'Europa, ma non ci crede nessuno, questo è il problema. Non ci crede nessuno perché non abbiamo fatto neanche mezzo passo contro l'Europa, abbiamo obbedito all'Europa. Ha ragione quando dice che lui fa la faccia feroce come il soldato di Franceschiello, ma poi ricuce fa la pace. Ma poi ricuce. Però queste cose Bianconi non le diceva di Berlusconi quando stava con Berlusconi, Che cosa? Che ci facevamo ridere dalla Merkel, da Sarkozy. No, come no? Ma io attaccavo la Merkel, mica Berlusconi. Ah, ecco pure. Adesso... Perché Berlusconi ha 2760 difetti, ma la politica estera non l'aveva fatta male. No, e comunque tra Renzi e l'Europa alla fine si capiranno, perché tra massoni ci si capisce. Ma c'è è uno scherzo. Sta scherzando Federico Novella, è un burlone. Ma chi non ha un grembiulino? Ma guardi, Bianconi, guarda, cerchi nel cassetto che anche lei un grembiulino ce l'avrà. Ce l'avrà. Ma come avviene? Vabbè, adesso dai, Bianconi, anche se non è della massoneria, sa come funziona. Come avviene? Ma alle 6:30 di mattina mi sta staccato così lei. La massoneria apre alle 9, osserva orari di ufficio. No, però Bianconi, ma mi interessa come avviene. Cioè, non si sa, è che è una cosa tanto segreta che poi la sanno tutti. Esatto. Ma come avviene? Dicono che a Firenze non ci sia nessuno che non lo sia. Sì, addirittura. Sì, ma sono Perugia, Firenze, Arezzo, Livorno. Sono città che vivono di questa roba qui. E allora anche lei, insomma. Ma però sono talmente deboli, non hanno forza, sì, che sono i più deboli che ci sono entrati, non i più forti. Una volta era differente. Però voglio dire, la domanda è questa. Io faccio la massoneria, faccio 18.000 massonerie e dopo un conto non niente nessuno. Però la questione è questa, Bianconi: se lei fosse massone, ce lo direbbe? Io sì. Ma come? Io sì, ma ci sarebbe mica niente. Ci sono gli elenchi, io glielo direi sì, ma non so un cazzo a me, non è che non avrei mica detto. Va bene. Adesso allora, tra poco mi dite che cosa ne pensate anche di questa possibile nomina di Marco Carrai, che è Marco Carrai, grande amico di Renzi, imprenditore, che Renzi vorrebbe, così si vocifera sui giornali, mettere a capo delle agenzie di sicurezza del paese. Prima però c'è il traffico. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. Berlusconi torna alla carica, vuole il popolo di internet. Vieni Berlusconi, vieni che ti aspettiamo, che la saccagnata di pernacchia che non ti abbiamo potuto fare quando eri sui predellini, sui tuoi cavoli di palchi, te le scriviamo su internet certe pernacchie. Alessandro Milan, il giornalista che ti fa più incazzare della giornata. Ma io volevo sapere perché non parlate l'italiano. Step Child Adoption. ma vuol dire affanculo, noi siamo italiani, perché mi parla l'inglese? Scusate, new, come si chiama, noi new, ma per piacere parlare italiano, la lingua più bella e più precisa del mondo, dopo il napoletano però, eh. Uè, Milan, ma non fai più dell'ironia sullo schema Allegri? Dai, dai, dai! Dai Federico Novella, lo schema Allegri, 10 vittorie consecutive, dai, è scudetto sicuro, è il sesto scudetto consecutivo. Non sei più così ironico. Non sono più così ironico, non sono più. Per una volta però ti vedo felice, una settimana felice per ma te. Ma c'è pur sempre la prossima partita alle porte. Allora, allora tempo. Hai sentito la saggezza del nostro napoletano? Oh, la stepchild adoption. Tra l'altro si litiga sempre sulle unioni civili. Federico, fai, abbiamo un parlamentare, fai un appello con me. Io l'ho detto da 3 giorni: o si fa stavolta o non se ne parli mai più. Mai sì, più. Guarda, il primo che ne parla gli tira una testata se non si fa stavolta, o no? Sono d'accordo, mi unisco alla tua sottoscrizione. Facciamo un appello pubblico: ora o mai? O mai, giusto. O mai. Basta. No, giusto. Adesso mai. Basta. E quindi Bianconi, ecco, ora o mai? Io sono favorevole, sono un'eccezione di centrodestra, sono favorevolissimo, non favorevole. Lo so, però dico che è stata poco intelligente quello che ha fatto Scalfarotto, molto Scalfarotto, perché che c'entra lui? Scalfarotto è quello che presenta, manda avanti questa legge, diciamo così, questo ma in realtà le dice c'è dietro Scalfarotto, c'è dietro, no, Scalfarotto. Non è che c'è dietro, perché c'è dietro, c'è dietro c'è la Cirinna, è lui che come il sottosegretario test si occupa per il governo di mandare avanti questa cosa, e io avrei detto non avrei mandato il Cirinna avanti perché pone il problema delle adozioni, della quale io sono anche favorevole, ma crea una, come posso dire, una resistenza presso tutti quelli che la resistenza, volenti o nolenti, l'avevano ormai abbassata in ordine alle unioni civili. Allora prima si poteva fare una cosa, consolidata una cosa, piano piano se ne facciamo e invece un'altra. Mettendo le adozioni insieme ha fatto il casino e la guerra di religione e basta, e quindi il risultato non passerà. Questa non lo so, non lo so se non passerà, basta che ce lo diciate, basta che ce lo diciate, è giusto, Federico? Io sono sottoscrittore di una proposta di legge per le unioni affettive, sì, e ho capito, dello stesso sesso, insieme alla Presti Giacomo, alla Campagna. Ho capito, ma è così, no, così ognuno c'ha la sua legge, non si fa mai niente, Bianconi. Poi non si può. Se lei fa il piagnucolone la mattina ci campa questa cosa. Non è vero che non si fa niente, si fa quello che si può, ma non si fa quanto si potrebbe perché chi comanda non vuol fare di più. Ha capito, Federico Novella, Alessandro Milan, il piagnucolone dell'informazione. Il frignone dell'informazione, però non lo so, non lo so se si farà o no questa cosa. Federico, tu che ne pensi di questa vicenda di Carrai? Non so, hai un'idea? Marco Carrai, imprenditore, grande amico di Renzi, racconta nei giornali: Renzi lo vorrebbe a capo delle agenzie per la sicurezza cibernetica della nazione. Ma anche qui dico che è come se Berlusconi avesse messo Bondi a capo dei servizi segreti. Era il suo migliore amico, più confalonieri forse. Quando era suo amico, esatto. Diciamo Nicol Minetti, non lo so. Ecco. No. Tra Carrai e Bondi? No. Tra Carrai e Bondi, come quanto lo so io. Tra la Belen e... Tra chi? Tra chi? Tra Belen? E Tina Pica. E Tina Pica. Non ricordate che la vecchia brutta. Sì, ma accetto l'equazione. Però chi è Belen tra Bondi e Carrai? Non ho capito. Tina Pica e Bondi. Tina Pica e Bondi. Carrai sa bene quel che fa. È un uomo... Ecco, lui è attento a tutte quelle cose. Lui è attento. Un po'. Carrai è come Belen. Attenzione, sta dicendo... pagare gli affitti gratis. Ci sta dicendo qualcosa su Marco Carrai. Attento a quelle cose, cosa vuol dire? Ci sta dicendo che per caso è burlone? No, che più burlone è attento a tutte le cose della finanza, tutte quelle, secondo me, a rapporti, non è che, siccome non è reato, non è che lo diciamo, a rapporti con tutte quelle cose pseudo segrete di cui si parlava, ma più dalla parte cattolica. Più cattolica. Sì, che si intrufola, che fa, che dice. Sì, è un intrufolone, è un intrufolone. però aspetta, anche qui Renzi sì, ripete lo schema a Berlusconi migliorandolo, perché Berlusconi a capo dei servizi segreti ce l'aveva messo l'amico del cuore che secondo lui capiva qualcosa, gli era Gianni Letta. E infatti però non si accorse che da 2 anni i servizi segreti spiavano Berlusconi quando faceva le scene. Ecco. Però Federico, questa cosa di Carrai può creare scalpore? Cioè l'accusa è nessuno ne sta parlando in maniera compiuta, nessuno sta... Diciamo che parlano in maniera compiuta perché si pesta troppi piedi con la faccenda. Che allora quello lì è un posto di garanzia, perché è un posto che si deve occupare, diciamo, dell'organizzazione informatica dei servizi segreti. Io immagino che alla guida di questa cyber sicurezza nazionale potevano esserci generali, colonnelli, persone magari forse un po' più competenti di Carrai, che non ha una competenza diretta in materia, però è amico. È l'amico di Renzi. Io non credo però che sia opportuno mettere l'amico di Renzi, che è stato fatto presidente dell'aeroporto di Pisa, che ha per carità 1000 rapporti, ma questi non fanno, diciamo, il curriculum giusto per quel posto lì, in un posto così delicato. Quando controllerà chi minaccia la sicurezza del paese, farà gli interessi del paese oppure farà gli interessi dei suoi e del suo amico? Questa è la domanda che ci facciamo. In ogni caso, vedi che parti da lì e torni lì, caro onorevole Bianconi. Oggi sulla stampa vedo una bella intervista a Flavio Carboni. Lei l'ha mai conosciuto, Flavio Carboni? Non l'ho mai conosciuto. Perché dice: chi frequento della politica? Verdini. Ecco, vedi? Sono amici. Sono amici, non c'hanno anche un processo insieme, però. No, ma mica bisogna avere un processo insieme se uno però... frequentando Carboni, che di processi in vita sua ne ha avuta con molti, e Verdini che ce n'ha un pochini, i due sono amici, è probabilissimo con questo back che qualcuno se lo si presti qualche processo, dice. Insomma, se ne danno in cambio qualcuno, te ne do due, ti do questo, mi manca un paio di abuso d'ufficio e tu magari mi dai qualche tutto un modo di vedere il mondo al quale non è strano tutta la logica renziana. Vedi che alla fine gira e rigira. Ritorniamo lì. Io vi devo salutare, vi ringrazio. Maurizio Bianconi, grazie per essere stato con noi. Ricordo, parlamentare conservatore riformisti, Federico Novella alle 9 con Mattino 5. Il burlone massone Novella. Novella un po' è massone, ve lo devo dire, lo confesso così alla fine. Ci svelerà alla prossima puntata a quale loggia appartiene. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, le 7:19 minuti, siamo qui pronti a leggere i giornali e vi ricordo che oggi torneremo sui temi dei licenziamenti dei dipendenti pubblici, la promessa di Renzi a dire in 48 ore si sbrigherà tutto. Ieri già abbiamo raccolto tante testimonianze vostre che oggi vi invitiamo a continuare a mandare, anzi contattateci dalle 8. Le nostre linee telefoniche sono aperte, 800 24 00 24, ne parleremo più tardi. E che dire, andiamo a vedere cosa ci propongono invece i quotidiani che trovate in edicola. È martedì 19 gennaio e i titoli intanto sono molti, dedicati al crollo delle banche ieri in borsa. Banche nel mirino, crolla la borsa, apre così il Sole 24 Ore. Così Repubblica, attacco alle banche, crolla Piazza Affari, nuova lite Unione Europea Renzi. Banche come lo spread, la Unione Europea licenzia Renzi, così apre Libero. Mentre il Corriere della Sera, timori per lo scontro tra Italia e Unione Europea. Anche il Messaggero, attacco alle banche, borsa giù. L'Unità, mai così in basso, per la prima volta il prezzo del petrolio sotto i 28 dollari, crollano ancora le borse. E ancora, per il giornale, l'Europa licenzia Renzi, manovre di palazzo, Juncker asfalta il Premier. Il titolo invece della Stampa: respinti 200 profughi, l'Italia controlla i confini con l'Austria. E Avvenire, sulle unioni civili, unioni, Renzi, svolta, il testo va cambiato. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Fatto Quotidiano attacca segreti e ricatti, l'ombra P3 sul governo, gli annunci e i messaggi di due confratelli della superloggia, i massoni che tornano. Oh, voglio però, se si può, riannodare i fili con quello che raccontavamo ieri, quando il Fatto Quotidiano pubblicava una pagina dedicata ai dati sul cyberbullismo, sul bullismo e dunque nei confronti, anche le vessazioni nei confronti degli adolescenti, soprattutto con l'uso della nuova tecnologia, proprio nel giorno in cui si registra un tentato suicidio di una dodicenne. È un caso di bullismo perché questa ragazza, questa ragazzina, 12 anni, si è buttata dalla finestra dopo aver lanciato dei messaggi, scritto dei messaggi: a scuola mi dicevano ucciditi. È un racconto che c'è un po' su tutti i giornali. Giusy Fasano lo fa per il Corriere della Sera, pagina 19. Da Pordenone, una ragazzina sola in lacrime seduta nella sua cameretta davanti a un foglio di carta vuole scrivere il suo addio al mondo perché tra un minuto spalancherà la finestra e butterà via i suoi 12 anni. Le sembra di avere più coraggio per morire che per continuare a vivere. Scrive una prima riga, un'altra ancora. Immagina mamma e papà che leggeranno quando tutto sarà finito. Devono sapere che, scrive, io stavo soffrendo e morendo dentro di me, che certe parole ferivano più di coltelli e mi facevano piangere. Ma anche loro, quelli che mi facevano piangere, devono sapere. E quindi, scrive questa ragazzina, per alcuni di voi sarà certo una notizia bellissima. Poi in realtà racconta, dopo questi messaggi, decide di non togliersi la vita, si dà malata una settimana lontano da scuola, ma proprio ieri, quando doveva tornare a scuola, non ce la fa, solo pensiero la distrugge, diventa insopportabile e allora si butta dalla finestra. La ragazzina è salvata grazie a una tapparella che ha attutito il colpo della caduta, e dice a chi la soccorre, per prima la madre: volevo urlare quello che avevo dentro e non riuscivo, non trovavo il coraggio di dirlo. E ancora ai soccorritori del 118 dice: a scuola me lo dicevano, perché non ti uccidi? Ucciditi. E allora ecco che questo tema, questo fatto terribile di cronaca, anche Repubblica tenta il suicidio a 12 anni, accusa i compagni, adesso sarete contenti, rilancia proprio il tema. E anche la mancanza di una legge, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione in passato, con una legge che colpisca e consideri un crimine il bullismo, non solo in qualche modo vessazioni, non solo una terribile moda o fenomeno negativo. Ecco allora che il Corriere della Sera, con Virginia Piccolillo, racconta che a questo punto la politica si muove sempre con i suoi tempi, no? Sempre con lentezza a capire i fenomeni quando si sono affermati. Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera, si appresta a concludere il giro di audizioni su un fenomeno che per l'Istat riguarda un adolescente su due, in particolare giovanissime e soprattutto ragazze, lo si diceva ieri. La svolta, dunque, annunciata da fenomeno, si inizierà a definirlo crimine. Si vuole creare un reato specifico e fare corsi di prevenzione. Sempre lentamente. Ci arriviamo. C'è tra l'altro su Repubblica un'intervista a Paolo Picchio, il padre di Carolina, 16 anni, di Novara, che si tolse la vita qualche anno fa. E oggi, intervistato da Repubblica, da Sara Martinenghi, dice: sono passati 3 anni, ancora il processo ai presunti colpevoli non è cominciato. Voglio giustizia per mia figlia, l'hanno colpita nel suo intimo più delicato. Non voglio additare o giudicare, ma la famiglia è responsabile di quello che fanno i figli minori. Quindi, senza additare i genitori, il padre di questa ragazza che si è uccisa, dopo aver scritto su Facebook: non posso sopportare tutto questo e le vessazioni, ora chiede giustizia. Di fronte a tanta violenza commessa, evidentemente ci sono state delle mancanze dei genitori, ma mai nessuno, mai uno di questi ha detto una parola nei nostri confronti, non sono venuti neanche a scusarsi. Insomma, questo fenomeno che è purtroppo dilagante nei numeri, tra l'altro è legato a questo, per carità in maniera diversa, c'entra la tecnologia come legame, ma è interessante la pagina di Maria Novella De Luca su Repubblica, pagina 23. Attenzione, cari genitori, io sono il primo che dico attenzione, dovrei dire a me stesso. Arrabbiati e silenziosi crescono così i baby drogati del web. Quante volte si dice, ma sì, dagli l'iPad, che così sta buono a 5, 6, 7 anni, a 4 anni, così i genitori possono farsi i cavoli loro e possono chiacchierare. Ecco, attenzione, attenti alla loro rabbia, attenti alla loro solitudine, attenti al loro troppo silenzio, al PC sempre acceso, alla TV senza orari, al tablet sotto il cuscino, alla richiesta continua mi dai il telefono non appena si affaccia l'ombra della noia, un'attesa senza distrazioni, tutti segnali che potrebbero anticipare e annunciare che a 8, 9, 10 anni un bambino può essere già un baby prigioniero del web, un potenziale autorecluso, insomma un adolescente da classificare domani come internet addicted. Repubblica dedica una pagina a questo, nasce anche un centro a Roma per i bambini schiavi della rete, occhi arrossati, dolore alla schiena, difficoltà a dormire, ritmi alterati, anche obesità, poi sono i problemi che si verificano e si riscontrano subito come sintomi legati a questo tipo di problematica. Va bene, se siete ricchi, questo articolo fa per voi. Se siete super ricchi, questo articolo fa ancora più per voi. Questi articoli fanno per voi. Allora, a me è molto colpito. Devo dire che il manifesto l'ho messo come titolo di prima pagina addirittura. I padronissimi. Mentre Avvenire ha dedicato il commento di pagina 3, la pagina più importante dei giornali, no? A che cosa e di cosa sto parlando? Sto parlando di questa ricerca di Oxfam intitolata Un'economia per l'1%. C'è un dato che colpisce e tutti i giornali oggi dedicano una pagina a questo, eh? Ci sono 62 nababbi nel mondo, super miliardari, persone che hanno dei patrimoni smisurati. Ma non è tanto la quantità dei patrimoni. Pensate che questi 62 super miliardari hanno la stessa ricchezza in soli 62 persone, concentrata la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone sulla Terra. Cioè 62 persone hanno in pratica metà del patrimonio della Terra, l'equivalente di metà della popolazione mondiale. Mi ha colpito certamente. Leonardo Becchetti su Avvenire dedica appunto un lungo commento a pagina 3, la disuguaglianza che cresce minaccia pace e democrazia, e scrive Becchetti: non ci sono più alibi del nostro egoismo, alla nostra pigrizia, all'azione delle istituzioni, perché la speranza dei poveri non può essere solo nella benevolenza dei ricchi. Dobbiamo votare col portafoglio per quelle imprese di intermediari illuminati che perseguono con maggiore lucidità questo ideale. Dobbiamo eleggere rappresentanti che promuovano politiche di creazione di valore economicamente, socialmente, ambientalmente sostenibile, fondate sulla progressività fiscale. Ridurre queste enormi diseguaglianze della ricchezza è l'urgenza di tutti, se vogliamo disinnescare le fonti di futuri conflitti. E chi sono questi super ricchi? Beh, il Corriere della Sera li mette addirittura in una pagina intera, pagina 15, tutti con le fotine, a cominciare da Bill Gates, 79,2 miliardi di dollari di patrimonio, poi Charles Slim, 77,1, Carlos Slim, il messicano, Warren Buffett, Amancio Ortega, Larry Ellison, Charles Koch, David Koch, Christy Walton è la prima donna all'ottavo posto della Walmart, 41,7 miliardi di dollari stimati. E così, insomma, si va avanti. Sono 62 mega ricconi, mega super miliardari. Per carità, la ricchezza non è assolutamente un disvalore, assolutamente, che però hanno tanto quanto metà della popolazione mondiale, la metà più povera, ovviamente. Un po' di squilibrio c'è, ma eccoci qui all'articolo che mi fa pinzare della giornata, lo scrive Libero, in realtà riprende un'inchiesta del secolo XIX, riguarda gli stipendi dei consiglieri regionali della Liguria. Domanda, come si fa a rispettare la nuova disciplina sui tetti alle retribuzioni senza che la situazione finanziaria personale ne abbia a risentire? Risposta, basta inventarsi il modo di scaricare l'incomodo sul fisco. E allora l'idea è venuta ai consiglieri regionali della Liguria. Hanno trovato l'uovo di Colombo così. Si prende la voce rimborso spese della retribuzione e ci si fa confluire all'interno l'indennità di funzione, ovvero la parte di emolumento relativa ai ruoli e alle mansioni svolte in seno alla regione. In questo modo, essendo i rimborsi esentasse, si sottrae l'indennità alla morsa del fisco. Gli eletti liguri sono i soli in tutta Italia ad avere escogitato questo schema per limitare i danni derivanti dalla decisione che nel 2012 era stata presa dalla Conferenza delle Regioni per fornire un po' di sollievo alle finanze pubbliche. Con rimborso spese i consiglieri regionali fregano il fisco. Poi dicono che i liguri sono un po' più tirchi degli altri. Ma insomma, liguri! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Grande, immenso Alessandro Milan, lo giurellone della nostra informazione. Evviva! E allora ricordate sempre allo 0246524492 risponde la nostra segreteria telefonica. Se volete mandarci messaggi, le vostre sigle, i vostri stacchetti, i vostri insulti, noi siamo molto molto felici, soprattutto per gli insulti. Allora, cari ascoltatori, c'è da parlare di questo rapporto con l'Italia, tra l'Italia e l'Unione Europea, un rapporto abbastanza compromesso negli ultimi giorni. L'ultima notizia che è trapelata dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia è questa. In modo informale si è fatto capire dall'Unione Europea, da Bruxelles, che in Italia non esistono interlocutori. È chiaro che la risposta ironica del ministro degli esteri Gentiloni è stata: abbiamo un ministro degli esteri, degli interni, dell'economia, un governo nel pieno dei suoi poteri. Il sottosegretario Sandro Gozi, che è delegato proprio ai rapporti con l'Unione Europea, ha definito inusuali questi attacchi. Insomma, che sta succedendo tra l'Unione Europea e l'Italia? Interessante Massimo Franco, pagina 3 del Corriere della Sera. Proprio tutti sono preoccupati a Roma, a Bruxelles, per questo scontro che si è aperto venerdì con l'attacco del presidente della Commissione Juncker contro Renzi. Un attacco che ha qualcosa di inedito, scrive il Corriere, nella sua virulenza. L'inquietudine a questo punto non riguarda solo le tensioni politiche tra Palazzo Chigi e Bruxelles. Se ieri il Wall Street Journal evocava la nuova frattura europea, c'è qualcosa di più di uno scontro casuale. La domanda che rimbalza è questa: ma perché Juncker ha deciso questa accelerazione polemica? A Roma viene registrato con un certo allarme il commento sull'Italia fatto ieri da una fonte anonima della Commissione europea, parole che di fatto hanno rincarato la dose delle critiche di Juncker. C'è un altro aspetto sul quale riflettere: come mai nessuno dei leader degli altri paesi, il greco Tsipras, il francese Hollande, la cancelliera Merkel in Germania, abbiano speso una sola parola in difesa dell'Italia? Su questo sfondo, più che reagire e battere i pugni, il problema è capire. E quando il 29 gennaio Renzi andrà a Berlino dalla Merkel, si troverà a fare i conti con una diffidenza e un'ostilità cresciute nelle ultime settimane, figlie anche dei timori tedeschi. Ma dire che a Roma manca un interlocutore significa mandare un messaggio pesante anche ai mercati finanziari e di fatto screditare il governo del paese. Questo Massimo Franco sul Corriere. Sta di fatto che infatti il giornale salta sulla notizia e dice: l'Europa licenzia Renzi. La risposta di Renzi, che non è una risposta formale, ma come sempre affidata ai retroscena della politica, il famoso Renzi dice ai suoi, Maria Teresa Meli racconta, pagina 2 del Corriere, che la reazione di Renzi è questa: paghiamo care le timidezze dei governi passati su banche, fiscal compact, aiuti di Stato, Ora che l'Italia è il paese più stabile d'Europa, dobbiamo toglierci di dosso il provincialismo e far sentire la nostra forza. Insomma, pretendo il rispetto di regole da parte di tutti. Non ci possono essere due pesi e due misure, in riferimento anche qui alla Germania. Ancora Renzi, non ci sono interlocutori? Più banalmente, un interlocutore c'è e sono io in quanto capo del governo italiano. Intendo far capire bene che gestirò direttamente la mediazione con l'Europa. Su Repubblica invece lo sfogo di Renzi è: pensino alle cose serie a Bruxelles. Comunque gli screzi ci sono. Dietro a questi screzi, secondo molti giornali, c'è anche la tensione tra Renzi e Lady Peschk, cioè la rappresentante della politica estera europea, la nostra Federica Mogherini, nostra in quanto italiana. L'accusa, non è la prima volta che trapela sui giornali, è che Renzi dice non fa molto i nostri interessi, non ci difende abbastanza. Comunque lo scontro con l'Unione Europea. Invece se veniamo in Italia, sui giornali affiorano, anche sui grandi giornali, un po' timidamente, le vicende che tirano in ballo massoni o presunti massoni, servizi segreti, intrighi, complotti che riguardano la vicenda Banca Etruria. Dopo che Libero ha parlato di questo Mureddu massone dichiarato, che dice: ho chiesto a Flavio Carboni, anche lui finito in decine di processi, di trovare un nome per Banca Etruria, e siamo andati dal papà della Boschi a discuterne. Beh, da qui è nata tutta un profluvio di complotti e complottismi. Parla, ed è la persona che parla di più oggi, Gianmario Ferramonti, intervistato da Peter Gomez sul Fatto Quotidiano, intervistato da Repubblica a pagina 19. Gianmario Ferramonti, imprenditore, amico di Licio Gelli e Flavio Carboni, dice alla Repubblica: stanno cercando di far cadere il governo Renzi per quattro bazzeccole. È una manovra che vuole Silvio Berlusconi. Guardi chi sono i giornali che spingono di più su questa storia degli incontri tra Boschi Senior e Carboni. E poi dice: Carboni, sì, è un mio amico, lo incontrai, mi disse di aiutare Etruria su richiesta di Pierluigi Boschi. E qui ognuno racconta la sua verità, chi conosce chi. Ad esempio Ferramonti dice: ho portato Fabio Arpe da Carboni. Ieri Fabio Arpe, il banchiere, dice: io Carboni non l'ho mai visto in vita mia. Flavio Carboni stesso parla, e lo fa La Stampa: chi mi tira in ballo vuole colpire Palazzo Chigi. Intervistato da Nicola Pinna, dice: io e il papà della Boschi non mi ricordo neppure che faccia abbia. Sì, l'ho incontrato per una stretta di mano, ma se dovessi ritrovarmelo di fronte rischierei di non riconoscerlo. Insomma, mi attribuiscono il potere di far cadere il governo solo per avergli stretto la mano. E il padre di Renzi l'ha mai conosciuto? So che il Renzi ha un papà, l'ho visto in foto sul giornale, dice Carboni. È amico del mio amico Mureddu, il famoso massone intervistato da Libero, aggiungo io. Lui, Mureddu, è figlio di un sardo emigrato e vive nello stesso paese del premier. Vabbè, ma lei, Carboni, chi frequenta Palazzo Chigi? Solo Verdini. Non è ministro, ma è lui che tiene in piedi il governo di Renzi. Siamo amici e l'inchiesta sulla P3 lo ha già rivelato. Vabbè, è il momento di complotti, massoni, grembiulini che spuntano. Ah, la storia d'Italia che torna. Corsi e ricorsi storici. Ma è il momento di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, ti ringrazio dell'accostamento che ti costerà la querela immediata. No. Vabbè, vedo che era meglio quando partivi con... Senti un po', Mauro, ma stasera l'Inter gioca? Non sono informato sul punto, adesso leggo, cerco sul Sole 24 Ore. Stasera c'è Napoli-Inter. Molte notizie interessanti, ad esempio a proposito di gioco, c'è una bella inchiesta che ti consiglio, di Roberto Galullo, sul gioco illegale online e su appunto una recente operazione che ha portato alla luce una trama. Molti giornali parlano anche delle scommesse nel tennis, ma poi invece parliamo proprio di gioco illegale online. Te lo consiglio sulle pagine del Sole 24 Ore, le pagine dei commenti, che non mi capita magari di invitarti a leggere giudiziosamente, ma invece devi farlo naturalmente. Sole 24 Ore lo devi sempre avidamente compulsare tutto dalla prima all'ultima pagina. Ti consiglio anche l'editoriale sulla vicenda delle banche, sai che sì. Le banche ieri non sono andate benino. No. Ecco, allora le pagine 2 e 3 spiegano il perché di questo cattivo andamento in borsa, ma soprattutto l'editoriale oggi di Moria Longo segnala questo problema che c'è tra l'Italia e l'Europa, non tanto per le questioni politiche quanto proprio sulla gestione dei crediti deteriorati e la cosiddetta bad bank. Se non hai capito, leggi l'editoriale di Moria Longo oggi. Molte cose ti saranno chiare, leggi anche la bussola, naturalmente, che ospitiamo poche pagine più avanti. Oh, naturalmente oggi è martedì, giusto? Condominio! Esatto, è martedì, quindi come fa a giocare l'Inter che è martedì? Vabbè, no, no, ma mi sai che gioca, adesso mi sono informato e sono pronto a dire una cosa. Questo spezzatino delle partite mi lascia sempre un po' perplesso. Allora, naturalmente la pagina di condominio ti segnala soprattutto le nuove disposizioni della legge di stabilità sugli affitti, te ne parliamo nelle pagine di condominio che tu attendi sempre con molta attenzione. Sappi poi che le richieste per il patent box sono arrivate a 4.500, tu dirai vabbè, e quindi, no, invece è importante perché è uno sconto vero per l'innovazione, uno sconto del fisco per l'innovazione. Tutto sommato una buona notizia, così come anche da dita incrociate la notizia sull'export, sì, che è andato bene, è andato meglio, te ne parliamo nelle pagine di Imprese e Territorio. Naturalmente tu ti sei già segnato in agenda la giornata di domani, sì? Come no? Quella sulle pensioni? Domani, ma come mi fa piacere, guarda, quando studi è un piacere ascoltarti, caro Alessandro Milan. Domani scoprirete tutti quando andrete in pensione e come. Domani il Instant Book con il Sole 24 Ore sulle nuove pensioni, come correttamente ha risposto Alessandro Milan. Bravo, guarda, sono proprio orgoglioso di te. Bene. Allora, vogliamo lasciarci su. Allora, lasciamoci su questo. Stasera gioca l'Inter, giusto? Ma sei sicuro di questa cosa? Oggi è martedì, c'è stasera, la pagina di condominio. Stasera c'è Napoli-Inter. So che attendi il mio pronostico. Direi un bel 2-1 per il Napoli. Guarda, lo attendevo, non so dirti neanche con quanta ansia, cioè, non mi poteva fregare di meno, però ti ringrazio molto e ricambio naturalmente dal profondo del cuore con tanti cari auguri per tutta quanta la vostra stagione e anche grazie, la vostra trattativa finanziaria. Grazie. Tante care cose e soprattutto traffico! Alessandro Milan, import-export dell'informazione. Va bene, allora ringrazio Albinia dalla provincia di Grosseto che Francesco, Albinia è il paese, Francesco che ci dice Meazza sindaco a Milano, parafrasando Moretti, avanti così, facciamoci del male. Allora, la vicenda Quarto è ancora ben presente sui giornali, la vicenda di Quarto, sapete, dove Rosa Capuozzo è stata sconfessata e espulsa di fatto dal Movimento 5 Stelle perché non si dimette. Ora, le accuse della sindaca colpiscono direttamente Roberto Fico, uno del direttore del Movimento 5 Stelle, perché Rosa Capuozzo è andata dai PM, dai magistrati, per essere interrogata come testimone, e dice fin da novembre sapeva delle minacce nei miei confronti di De Robbio, questo consigliere poi cacciato già a tempo debito dal Movimento 5 Stelle. L'ammissione di Rosa, già inizio novembre l'onorevole sapeva tutto, a pagina 9 sono riprodotti i verbali nell'articolo di Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini, con i verbali di Rosa Capuozzo interrogata dai PM il 24 novembre. Ho informato immediatamente dopo l'onorevole Roberto Fico del mio interrogatorio e del contenuto, cioè delle pressioni di De Robbio nei suoi confronti. Anche se il Movimento 5 Stelle reagisce, noi siamo uniti contro questo fango, non abbiamo scheletri. Questa è la reazione, racconta Annalisa Cuzzocrea di Grillo e Casaleggio, che si stringono e confermano e riconfermano la fiducia a Roberto Fico. Questo almeno si legge su Repubblica. Va bene, andiamo ad altre notizie che mi hanno incuriosito. La prima c'è sul Corriere della Sera, è riportata da Luigi Ferrarella, è una vicenda giudiziaria che riguarda un personaggio importante perché è Giuseppe Sala, ex commissario dell'Expo e candidato alle primarie come sindaco di Milano per il centro-sinistra. Ebbene, il giudice ha archiviato le accuse a Sala di abuso d'ufficio per la vicenda dell'assegnazione dell'appalto a Italy nel padiglione Expo. Racconta Ferrarella, sono esistenti e condivisibili i dubbi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla mancata osservanza della normativa originaria sugli appalti, quando nel giugno 2013 Expo ha concesso senza gara e con affidamento diretto a Italy il servizio pubblico di ristorazione in 2 dei 10 edifici nel decumano. Dunque, rilievi dell'Autorità Anticorruzione esistenti e condivisibili. E inoltre la società di Sala ha assicurato a quella di Farinetti condizioni economiche particolarmente vantaggiose e di maggior favore se paragonate a quelle più rigorose per gli altri 8 edifici. Tutto vero, ma Sala va archiviato perché non risulta univocamente dimostrabile l'elemento psicologico richiesto dal reato di abuso d'ufficio. Infatti, anche in presenza di un indiscutibile vantaggio contrattuale per Italy, non è dimostrabile che Sala abbia agito intenzionalmente per procurare un vantaggio ingiusto a Farinetti, l'amministratore delegato di Italy. Non emergono dunque motivi sotterranei e anzi, essendo tangibile l'interesse pubblico di Expo ad avere Italy tra i propri partner. Insomma, archiviato Sala anche se le condizioni vantaggiose fornite a Italy sono confermate nell'atto di archiviazione. Mi ha colpito anche tutta questa vicenda del tennis, ma insomma, vabbè, ma io non è che avevo, insomma, non è per fare l'anima candida, ma non avevo molti dubbi laddove girano moltissimi soldi, soprattutto in partite nelle quali un giocatore di tennis può, che ne so, vendersi un paio di giochi. Beh, nel tennis è facile, dice, perdi i primi 3 giochi, che noi scommettiamo che perdi i primi 3 giochi di una partita e poi fai pure come vuoi e vinci. E il risultato è che l'accusa, almeno della BBC, è terribile. Vendevano pure le partite di Wimbledon e sarebbero coinvolti, anche se non ci sono nomi, ma l'accusa di questa inchiesta è che c'è un rapporto shock sulle scommesse del tennis. D'altronde, come vengono capite? Beh, basta vedere il torneo di tennis di Sopot in Polonia, dove, come racconta Gaia Piccardi a pagina 21 del Corriere della Sera, non è uno di quei tornei per cui i giocatori sgomitano né i tifosi fanno follie. Eppure ci sono state registrate, per esempio nell'agosto 2007, in una partita, scommesse superiore ai 4 milioni e mezzo di euro, il 20% provenienti da conti registrati a Mosca. È chiaro che la cosa è insospettito per alcune partite. Ora, non c'è nulla di provato, ma le accuse della BBC, respinte dalla Federazione Mondiale di Tennis, è che ci sono anche giocatori tra i primi 50 della classifica mondiale che si sarebbero venduti o partite o spezzoni di partite per favorire alcuni scommettitori online. E Ale, andiamo avanti. Vi segnalo, se avete paura di volare in aereo, il libro che ha scritto Antonio Bordoni, esperto di sicurezza aerea e di cui parla oggi il giornale a pagina 17. Infarto, alcol e depressione se il pilota va in picchiata. È una raccolta da parte di Bordoni, massimo esperto appunto di sicurezza aerea, di 5.000 incidenti avvenuti dal dopoguerra a oggi, praticamente tutti, con vicende tipo alcune raccolte di casi, come quando il pilota di un Boeing 767 di Air Canada sentì l'impulso di parlare con Dio e uscì di senno durante il volo e fu fermato con la camicia di forza dai colleghi. Oppure Brian Griffin, pilota della Qantas, ogni volta che si trovava ai comandi era preso da quell'impulso di far precipitare l'aereo e ne parlò ai medici della compagnia, ma non fecero nulla, al che lui fece causa alla compagnia perché sottovalutavano il suo stato e il giudice gli diede ragione. Oppure un pilota in preda all'angoscia per le scommesse fece cadere l'aereo della Silk Air Indonesia del 1997. Ancora l'aereo russo del 2002, un Antonov, precipitò, 10 morti, entrambi piloti ubriachi. Insomma, succede anche questo nel libro raccontato di Antonio Bordoni, raccontato dal Giornale da Paolo Stefanato a pagina 17. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina intera del Fatto con richiamo in prima. Nanni Dalbecchi, a partire dalla reunion di Friends, racconta la bellezza delle reunion. Albano e Romina, X-Files, che bello dopo tanti anni riunirsi, rivedersi, riabbracciarsi. Ma chi se ne frega!